tulla le stenda per l'aere fellò. Qual voce? Alcina saprà arrestar della tua fuga il volo. Bellissima reina, il tuo Ruggero, sovralato destriero, agli amor tuoi, a sdegni miei s'è tolto. Che finge? Avrà chi segua. Oh, che bel volto! Ti leggiadro guerrier, come t'appelli? Aldarico son io, Ruggero infido d'una germana mia, il credulo bel cor trassa d'amore, poscia ingrato incostante l'abbandonò. Per cancellar quest'onda siego in Ruggier la mia vendetta, e il trovo, ma in van, ti spiegherà tu all'aurea i venti, minacciando a me morte, a te ruina. O folle, eterno, il gran poter d'Alcina! Superba, altera! Crede forse per lui che io disperar mi deggia? Come il raggio di sol non manca stella, non manca donna bella, mai gentile a